Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, puntata numero 412, nella quale parleremo di zoo che naufragano, macellerie che chiudono, zabaioni senza uovo. Speriamo di avervi incuriositi. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Parlare di animali non umani non ci basta. Anche se siamo una trasmissione animalista, a volte siamo costretti a parlare di umani. Di umani che però a noi sembrano disumani. Ecco, oggi è una di quelle occasioni perché proprio in questi giorni in cui il Natale si avvicina, diventa più lampante come la nostra società sia disposta a seppellire, in nome del consumo, ogni principio di compassione e solidarietà. Principi senza i quali non ci sarà salvezza per noi umani nei nostri momenti di fragilità, ma non ci sarà speranza anche per gli altri animali che sono al centro della nostra trasmissione, che attraverso di loro, cioè attraverso il rapporto della società umana con gli altri animali, cerca di leggere e valutare e riflettere sul mondo che ci circonda. In questi giorni sono fioccate in tutta Italia, da Como a Trieste, ordinanze di sindaci che in nome del decoro, cioè di un'idea di pulizia e di ordine da benestanti, anziché aiutare e sostenere chi ha di meno, chi è escluso dal magico mondo del consumo, lo colpisce e lo allontana dallo sguardo, come un'umanità di serie B da nascondere e segregare. Questa ci sembra una metafora del rapporto che abbiamo con gli altri animali e con la loro dignità. I volontari del gruppo Welcome, Osservatorio Migranti di Como, la scorsa settimana di domenica si erano recati a distribuire la colazione alle persone che dormono fuori perché sono senza casa e sono stati fermati dai vigili perché una nuova ordinanza firmata dal sindaco del comune di Como vuole ripristinare la tutela della vivibilità e il decoro del centro urbano fino al 10 di gennaio. Dopo quella data, quindi passate le festività, allora sarà forse di nuovo possibile portare un piccolo simbolo d'amore a queste persone. Ma non bisogna farlo a Natale, perché farlo a Natale non è decoroso. Ditemi voi se questo non è un paradosso. Queste ordinanze, tra l'altro, ricordano altre ordinanze, come quella del sindaco Nicola Catania, primo cittadino di Partanna, che tempo fa, qualche mese addietro, aveva vietato la somministrazione di alimenti ai cani randagi. L'ordinanza recitava così: è vietato somministrare alimenti per la sussistenza a cani vaganti per il territorio comunale, senza proprietario, su area pubblica. e a noi sembra che tra queste ordinanze ci sia più di una connessione. I think everybody's gone home. Just because I played a little bit too much Otekra. Can't blame them. This is insane. If you want to play along, this is what we're doing. Notizia più importante, finalmente anche positiva, di questa ultima settimana è senz'altro il naufragio del progetto che prevedeva a Torino la riapertura dello zoo negli spazi dell'ex parco Michelotti. Questo zoo doveva essere gestito da Zoom, la società che gestisce il bioparco di Cumiana in provincia di Torino. Il futuro del parco consisterà invece in una grande area verde con scivoli e altalene per bambini. Esultano le associazioni e i comitati civici che a più riprese avevano contestato il progetto, mentre gli avversari politici del Movimento 5 Stelle, quindi il PD, twitta con l'hashtag Appendino sfascia Torino. I messaggi sono di questo tenore: Chiara Appendino ha raggiunto un altro grande risultato, 6 milioni di investimento privato, 30.000 metri quadrati riqualificati e pubblici, altrettanti di bioparco buttati via per insipienza amministrativa e ideologica. Ma qual è il motivo o i più motivi che hanno portato ad abbandonare il progetto dello zoo? Abbiamo cercato di capirlo con un servizio a cura della nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino, in collaborazione con un'altra nostra corrispondente, stavolta da Torino, Elisa Moretti, che è anche una vecchia conoscenza, ideatrice e fondatrice di questa trasmissione, che dopo varie vicende familiari e due traslochi, siamo felicissimi di avere nuovamente a bordo. Sentiamo il servizio. A Torino lo zoo non ci sarà. Una notizia che tutti gli animalisti speravano di sentire e che sembrava un miraggio impossibile. La scorsa settimana invece Zoom, la società che già gestisce uno zoo a Cumiana e che stava per mettere in atto il famigerato progetto di un nuovo luogo di prigionia con l'appellativo fuorviante di bioparco nel Parco Michelotti di Torino, ha fatto clamorosamente marcia indietro, firmando con il comune un accordo che conclude consensualmente la procedura. Stando alle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Zoom, Gianluigi Casetta, infatti non esisterebbero più i presupposti imprenditoriali per la stipula della convenzione. Una svolta inaspettata dopo mesi di battaglie delle associazioni animaliste e ambientaliste raccolte nel comitato No Zoo, con una raccolta di firme con oltre 7.000 adesioni, presidi e diverse manifestazioni. Tra tutte, quella imponente dello scorso maggio che aveva portato in piazza 2.000 persone per protestare contro la chiusura di uno spazio pubblico e il ritorno di animali in gabbia nello stesso Parco Michelotti, dove solo 30 anni fa l'ex zoo aveva chiuso i battenti. Già nel settembre scorso avevano cominciato a circolare voci sulla presunta volontà di Zoom di non voler proseguire nel progetto, subito però smentite. All'origine del passo indietro ci sarebbero motivazioni di tipo economico, tra cui le spese per la valutazione di impatto ambientale richiesta dal comune. Forse però ha influito anche la mancata condivisione con il territorio per un progetto così importante che avrebbe cambiato l'identità del luogo. A Gualtiero Crovesio, responsabile della LAV di Torino, che insieme ad altre associazioni riunite nel comitato No agli Zoo ha portato avanti la battaglia contro il bioparco Michelotti, abbiamo chiesto quali sono state secondo lui le ragioni di questa svolta inaspettata. Sentiamolo. Le ragioni dell'abbandono del progetto di un nuovo zoo a Torino sono scritte all'interno delle dichiarazioni dello stesso responsabile di Zoom. Sono state determinanti le iniziative di protesta portate avanti negli ultimi 3 anni dalle associazioni e dai comitati che riunivano ambientalisti, antispecisti, animalisti. Queste iniziative si sono concretizzate ad esempio nella manifestazione dello scorso 25 maggio che ha portato a Torino 2000 persone per dire no allo zoo, ma anche in altre iniziative come il ricorso al TAR, il ricorso al Consiglio di Stato, ben 15.000 firme raccolte, innumerevoli presidi e manifestazioni a livello locale che certamente a leggere le dichiarazioni del responsabile di Zoom sono state ciò che ha determinato questo retromarcia che non era assolutamente scontato. Il ruolo della politica è stato del tutto marginale. L'unico soggetto che da parte istituzionale ha portato avanti il proprio dovere è stato l'assessore Unia che si è insediato lo scorso giugno e che ha chiesto recentemente a Zoom di effettuare la valutazione di impatto ambientale sull'area nella quale sarebbe dovuto sorgere il nuovo zoo. E di fronte a questo colpo finale, tra virgolette, Zoom ha deciso di tirarsi indietro. Né il Movimento 5 Stelle, che recentemente si è intestato questa vittoria, né tantomeno il Movimento Animalista, che sta facendo più o meno la stessa cosa, abbiano avuto un ruolo neppure marginale. Il Movimento 5 Stelle ha segnato una costante passività in questo processo e il Movimento Animalista non ha fatto altro che inserirsi con le proprie bandiere all'interno delle nostre iniziative, salvo non versare nemmeno un euro, che peraltro non avremmo probabilmente nemmeno accettato, per sostenere le iniziative contro lo zoo. Quindi, dall'una che dall'altra parte, riteniamo del tutto fuori luogo l'intestazione di questa vittoria, che non è altro che delle associazioni. Insomma, il Parco Michelotti non ospiterà uno zoo. Il suo futuro sarà forse quello di diventare un'area verde pubblica con scivoli e altalene per i bambini, ma soprattutto sarà senza gabbie. Roberta Marino, corrispondente da Milano, ed Elisa Moretti, da Torino, per Restiamo Animali. Un'altra notizia è quella che riguarda Tesco, un gigante della distribuzione con sede nel Regno Unito. Con 3.700 punti vendita, Tesco è di gran lunga la prima catena di supermercati nel paese. Per un facile raffronto, l'S Lunga ha 150 punti vendita qui in Italia e la Coop 1.000. Ebbene, dall'alto della sua posizione egemonica, Tesco ha chiuso tutta una serie di banchi, macellerie e pesce fresco nei suoi punti vendita. L'ultima chiusura è quella recente nel supermercato di Liverpool, che è stata annunciata dal Meat Trades Journal, accolta come un successo dalle associazioni vegetariane e vegane. La tendenza in realtà è mondiale. Negli Stati Uniti la catena Whole Foods per il 2018 prevede un aumento degli alimenti vegetali in tutte le categorie, dalla dieta mediterranea a quella messicana, fino agli ortaggi freschi e preparati. Anche Walmart, sempre in Gran Bretagna, ha chiuso i reparti macelleria, scegliendo di vendere solo carne in vassoi già pronti all'uso. Pertanto non c'è più quel servizio che andava dal sezionamento delle carcasse alla carne tritata sul momento. I clienti quindi smettono di vedere le carcasse, le cosce di animali appese nei corridoi in cui fanno la spesa. La diminuzione dei servizi erogati dal personale potrebbe però essere dovuta anche alla costante ricerca di riduzione del costo del lavoro. Infatti, un banco di macelleria full service richiede manodopera specializzata ed è probabile che i supermercati che operano con margini molto sottili non riescano più a giustificare questo tipo di costi. Oppure la scelta è dovuta al fatto che le persone preferiscono prendere le vaschette già porzionate o gli alimenti preparati e lavorati industrialmente, in quanto hanno sempre meno tempo per cucinare. Le persone, insomma, continuano a mangiare la carne, però la distanza tra gli animali e il prodotto che ci si mette nel piatto aumenta sempre. Sempre meno le persone saranno disposte ad acquistare prodotti che abbiano una qualche rassomiglianza con parti di animali riconoscibili. Quindi può essere che a lungo termine questo aumenti anche la distanza delle persone dalle origini autentiche del loro cibo e possa anche avere un impatto negativo sulla consapevolezza, riducendo l'efficacia delle campagne di sensibilizzazione che puntano invece a svelare chi ci mettiamo realmente nel piatto. Questo lo vedremo nel più lungo periodo. Quello che è certo è che nei prossimi mesi gli inglesi cammineranno nei corridoi dei supermercati vedendo sempre meno manzi appesi o pesci con gli occhi sgranati. Anche Kraft Heinz, la quinta multinazionale al mondo del settore alimentare, ha annunciato che smetterà di utilizzare le uova da allevamenti in gabbia. Si è data una scadenza, la Kraft ha detto che lo farà entro e non oltre il 2025 in tutte le sue operazioni a livello globale. Dopo il recente impegno di Nestlé, un altro gigante del settore, adesso si schiera contro gli allevamenti in gabbia, confermando un trend che è inarrestabile in Italia come all'estero. Tra le grandi aziende multinazionali che hanno fatto questa scelta si possono citare General Mills, Kellogg's, Sodexo, Intercontinental Hotel Group, Compass Group e Mondelez International. Ma anche in Italia politiche di questo genere si stanno diffondendo grazie agli impegni di Ferrero e Barilla, Giovanni Rana, Balocco e altre 15 aziende del settore alimentare nostrano. La stessa Una Italia, l'associazione di categoria che rappresenta la maggioranza dell'industria avicola nazionale, ha recentemente pubblicato un articolo in cui, riferendosi al trend cage-free, afferma che il solco è stato tracciato e la tendenza è ormai chiara. In controtendenza è invece il ministro delle politiche agricole italiano. A tavola nascono nuovi eroi, è il nome di una costosa campagna di comunicazione che, con toni freschi, moderni e accattivanti, cerca di rilanciare il consumo di uova e di carne di coniglio. Campagne radio, spot TV, due siti ad hoc, volantini nei punti vendita, attività nei mercati rionali, pagine Facebook e profili Instagram. Il Ministero delle Politiche Agricole italiano, in collaborazione con l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, l'ISMEA, corre ai ripari per frenare la diminuzione del consumo italiano di carne di coniglio e di uova. In Italia il coniglio è ormai il terzo animale da compagnia più presente nelle famiglie ed è inevitabile che a tavola sia in costante diminuzione. Si parla di un meno 12% nei primi 9 mesi del 2017. Sulle uova forse le motivazioni sono più di tipo salutistico per la questione del colesterolo, ma è vero che la pasticceria vegana si sta affermando e ne fa a meno delle uova, di conseguenza le vendite sono a picco. Questa campagna pubblicitaria, a tavola nascono nuovi eroi, si rivolge prima di tutto ai giovani, forse perché proprio i giovani sono più sensibili rispetto a maltrattamenti degli animali da reddito. Correre con i ghepardi, stare in piedi su un aeroplano in volo, la comunicazione gioca tutta sull'energia che danno questi prodotti, permettendo di compiere imprese straordinarie, scrive l'associazione Esseri Animali nel suo blog. Ma di certo non sono straordinarie le terribili condizioni di vita a cui sono costrette le galline ovaiole e i conigli da carne. Instagram si allea ad alcune organizzazioni ambientaliste contro lo sfruttamento degli animali selvatici, in particolare nel settore turistico, e dichiara guerra ai selfie con specie selvatiche o a rischio scomparsa. D'ora in poi, ad ogni ricerca di determinati hashtag, come per esempio i selfie con un koala o con un bradipo, il social di proprietà di Facebook mostrerà agli utenti un avviso per ricordare che l'abuso di animali e la vendita di specie minacciate o di loro parti non è consentita su Instagram. Una mossa che cerca di rendere le persone più consapevoli e di sensibilizzarle nei confronti della natura. L'iniziativa è lanciata in collaborazione con WWF, Traffic e World Animal Protection. L'obiettivo è scoraggiare comportamenti di ogni tipo che possano essere dannosi per la natura. A febbraio scorso divenne virale e destò molte polemiche il caso in Argentina di un esemplare di un raro delfino tolto dall'acqua da un gruppo di bagnanti per scattarsi foto e selfie. L'esemplare morì poco dopo. Alcune varietà selvatiche di riso e frumento, ma anche rari delfini di acqua dolce del sud-est asiatico, sono tra le specie di piante e animali per cui il rischio estinzione si sta pericolosamente avvicinando. A lanciare l'SOS è l'ultimo aggiornamento della lista rossa delle specie minacciate, compilata dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, lo IUCN, che punta il dito contro l'uomo e in particolare contro un sistema alimentare insostenibile a causa di agricoltura intensiva e cattive pratiche di pesca. Oggi parliamo di musica natalizia dal sapore vegan. Per chi come la nostra Camilla ama scambiarsi i regali sotto il vischio, quest'anno non può fare a meno della pop star Sia e del suo lavoro Everyday's Christmas. Per i più altezzosi, il nuovo album di Morrissey, di cui parleremo prossimamente. Mentre per coloro che si sentono graffianti e combattivi come le nostre Roberta e Francesca, consiglio Beyond Resurrection dei Dead SS con annesso DVD e magari in loop l'ascolto di Jingle Hells cantato insieme a Bulldozer. Ma il brano natalizio che vi propongo di ascoltare e di acquistare è l'anteprima del nuovo CD di Moby, che uscirà a marzo dal titolo Everything Was Beautiful and Nothing Hurts, che è una citazione di Mattatoio 5 o La crociata dei bambini, un romanzo di Kurt Vonnegut, considerato un testo con tematiche pacifiste. Il brano che vi propongo è Like a Motherless Child. Dal titolo e dalla copertina possiamo intuire la piega che prenderà il lavoro. Il nostro Moby prosegue il suo percorso di sensibilizzazione sui temi animalisti, ambientalisti e vegan. Buon Natale e buon ascolto! A late paved with so much laser. I'm never safe from all this danger. The demon's eyes and demon's satyr. I was bait, but what would bait her? Don't know my needs, don't know my way, sir. I had my face, no way to face her. This was lost, this was my name. This was my truth, this was no game. This was not hope, this was not sane. And from these broken places made, that was lost and this was later. I wanted less but nothing greater. I couldn't leave, I couldn't stay, so like a motherless child. Sometimes I feel so. sane from these broken places made. That was lost and this was later. I wanted less but nothing greater. I couldn't leave, I couldn't stay, so like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. C'è la luna sui tetti, c'è la notte per strada, le ragazze ritornano in tram. Ci scommetto che nevica tra due giorni a Natale, ci scommetto dal freddo che fa. E da dietro la porta sento uno che sale, ma si ferma due piani più giù. Potere della pazienza, cruelty free, vieni a me. In barba ad ogni anatema, una ricetta intoccabile alla quale con totale sfrontatezza non cambierò neppure il nome. Zabaione vegan. Gli ingredienti per 300 g di crema sono 50 g di latte di soia, 50 g di acqua faba, 50 g di marsala, 50 g di zucchero di canna, 150 g di olio di semi di girasole, un cucchiaio di olio di semi di lino, un pizzico di sale e un pizzico di curcuma in polvere. E tu scrivimi, scrivimi se ti viene la voglia e raccontami quello che fai. Se cammini nel mattino e t'addormenti di sera, e se dormi, che dormi. Per prima cosa fate sciogliere lo zucchero di canna insieme al marsala e lasciatelo a fuoco lento fino ad ottenere uno sciroppo denso, facendo attenzione a non farlo caramellare. Toglietelo dal fuoco e lasciate raffreddare. A parte, versate il latte di soia e l'acqua faba nel bicchiere di un frullatore ad immersione. Azionate il frullatore e versate l'olio di semi di girasole a filo. Lavorate facendo salire lentamente la frusta del frullatore e aggiungete la curcuma e l'olio di semi di lino. Quindi lasciate riposare in frigorifero per mezz'ora. Infine unite lo sciroppo di zucchero e marsala e un pizzico di sale, lavorando delicatamente con una spatola, mescolando dal basso verso l'alto con un movimento circolare. Lasciate riposare in frigorifero per un'ora prima di servire. E siamo in chiusura. Vi saluta la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Elisa Moretti, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 413 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta a meno 30 minuti. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.